Allora, per cercare di capire perché le ferrovie parlino di un bilancio da svolta del 2007 come anno della svolta, siamo in collegamento con l'amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato, Mauro Moretti. Buonasera innanzitutto. Buonasera a lei, buonasera agli ascoltatori. Vediamo i conti. Nel 2006 le FS complessivamente, quindi con le due società poi operative, perdevano nel 2006 2 miliardi e 115 milioni di euro. A quanto ammonta la perdita sul 2007? Quest'anno siamo arrivati a meno 409 milioni di euro, ancora negativo, però il miglioramento è stato dell'80%, se si fa il conto, 1.700 milioni circa di miglioramento sul risultato netto. Come avete fatto a migliorare le perdite di 1.700 milioni? Ecco, nella parte naturalmente il risultato netto sono anche questioni straordinarie. Parto dalla parte del margine operativo lordo, che ha un miglioramento di 465 milioni, nel senso che siamo passati da meno 650 a più 463, questo è importante, finalmente vediamo un segno più. L'abbiamo fatta in maniera molto semplice, l'abbiamo fatta aumentando i ricavi e tagliando i costi per quanto possibile. Abbiamo avuto maggiore fatturato sul traffico viaggiatori, quello che sta a mercato, nel senso che la parte di quello che si può ripagare sul mercato senza nessun contributo dello Stato. Abbiamo avuto soprattutto un aumento nel traffico internazionale in termini di ricavi, forte aumento del fatturato merci, pochi sanno che stiamo svolgendo un'attività europea, non solamente nazionale, su questo. Quest'anno abbiamo aumentato sull'internazionale del 20% il nostro fatturato. E abbiamo fatto anche naturalmente un'importante messa a punto dei rapporti con lo Stato, che molto spesso non ci dava i soldi dei contratti di servizio che liberamente aveva chiesto e scritto. Quest'anno ci hanno dato i soldi relativi e abbiamo fatto poi un'operazione di contenimento dei costi, circa 150 milioni di costi tagliati. E a questo si aggiunge, in particolare la parte del lavoro, una situazione di non incremento di costo in questo caso, pur avendo assorbito naturalmente i costi di inflazione come tutte le altre voci, ma anche un rinnovo contrattuale. Sostanzialmente allo stesso livello di costi abbiamo ridotto 6.000 persone, non in un anno ma in un anno e mezzo, da quando siamo entrati nella nuova gestione. 6.000 persone su 98. Su 98.000. Sono 8%. È quasi l'8%. Anche il margine operativo lordo, dottor Moretti, è migliorato rispetto al 2006 e l'indebitamento, se ci può ricordare, a quanto è sceso e anche in questo caso come si è riusciti a ridurre l'indebitamento? Sì, ripeto, la parte legata al margine, siamo passati da meno 650 nel 2006 a più 463. La parte dell'indebitamento finanziario netto da 9 miliardi e qualcosa, e 17 milioni, a 6 miliardi e 741. Sul primo naturalmente la ricetta è quello che dicevo prima, sull'altro abbiamo cercato di riuscire a limitare al massimo la necessità di finanza, anche cercando di limitare quelli che sono in alcuni casi investimenti, ma devo dire tutti gli investimenti che erano messi sulla parte non remunerativa, quindi investimenti tipo servizio universale, che prima di doversi fare avevo bisogno di dover ricostruire con lo Stato un rapporto chiaro su ciò che è definizione del servizio universale, vale a dire laddove strutturalmente i costi non possono essere ripagati, costi efficientati dico, non possono essere ripagati dal mercato, anche in questo settore, visto che è un settore liberalizzato in cui c'è una concorrenza già piena, anche in questo settore occorre intervenire con quella che è la logica del servizio universale già sperimentata in altre utility. Ecco, vediamo, arriviamo proprio a questo, perché da un lato che cosa chiedete voi all'azionista, cioè al Ministero dell'Economia, sui servizi non remunerativi? Ci sono linee in cui le Ferrovie dello Stato garantiscono servizio come servizio pubblico, frequentazioni basse e anche basse tariffe. Dall'altro vorrei capire che ne è stato degli aumenti tariffari, no? C'era sì. Complessivamente. Posso rispondere semplicemente. Prego. Noi abbiamo fatto degli aumenti tariffari importanti nella fascia alta di mercato, anzi, in quelli che sono i treni a mercato, dove già si coprivano da soli con i ricavi i costi. E in questo caso noi abbiamo avuto, incredibilmente, con un aumento del 15% medio, abbiamo avuto un aumento dei passeggeri dell'1,5%. Laddove invece non c'è stato aumento tariffario, comunque di nemmeno dell'inflazione, tutta la parte già a contratto di servizio dello Stato, i lunghi treni dal sud al nord oppure quelli dove non ci sono concentrazioni sufficienti, in particolare traffici che sono ormai obsoleti, lei pensi ai treni notte che ricordano, riporta la nostra attenzione a quelli che emigravano dal sud al nord sostanzialmente. Questi treni sono gradualmente abbandonati, non ci sono stati aumenti tariffari ma hanno perso traffico, quindi viene fuori una necessità, mentre il mercato sa autoalimentarsi e sa anche attrarre, come lei sa, concorrenti, NTV si sta preparando per farci concorrenza, la parte dei servizi universali ha bisogno di essere rimessa a punto, dovremmo riadeguare l'offerta, ma è lo Stato che deve naturalmente partire su questa cosa, visto che fa la domanda, sia a livello nazionale che a livello di regioni, cercare di fare dei servizi più adeguati alla domanda di oggi, considerando che nel frattempo si stanno aprendo anche linee a alta velocità che rendono assolutamente superati certi servizi, penso a quelli di notte. In altri paesi questi servizi ormai sono ridotti al lumicino. Noi abbiamo ancora nella lunga percorrenza il 30% dei treni notte, che sono, mi permetta di dire, una specie di follia, insomma. Visto che parlava di alta velocità, come vanno i lavori sulla Bologna-Milano?